fondo. Diciamo, lo metti in bricca, e come, a che distanza ce l'hai? I soliti 45-50 centimetri, mi dovrei avvicinare per... guarda, così sono a circa 30 centimetri. Sì, ha migliorato tantissimo, ha migliorato tantissimo. Sembra... allora... adesso ti dico subito la differenza. Allora, quando tu lo tieni lontano, sembra che va quasi a saturare, capito? Quando tu te l'avvicini, la modulazione diventa molto corposa e più ben definita. È molto definita quando la avvicini, capito? È bella, bella. Aggressiva, prepotente, quando avvicini, quando ti avvicini è molto prepotente, mentre quando ti allontani da un senso da effetto megafono, capito? Non so se è presente le trombe, quando tu ascolti una filo di fusione, quelle trombe a filo di fusione, così tipo distorta, va a saturare, mentre quando la avvicini è molto ben definita ed è bella. Va bene, no, è giusto per memorizzare tutte queste cose. Tieni presente che sono con l'amplificazione a 30, io mi ricordavo che era 23. Sì, era 23 in AM, però se te lo avvicini va bene anche a 30 e non devi stare a modificare niente. Lo so che per tua comodità preferisci tenerlo a quella distanza, però avvicinandolo così a 30 cm, 25-30 cm, la modulazione è perfetta, è molto molto molto bella. Vabbè, la lasciamo così, capì? Sì, per mia comodità, perché non ho spazio, non per altro. Quando sarà che avrò la possibilità di averlo in posizione ottimale, vabbè, la utilizzerò così. Ti faccio con la prova di quell'altro microfono, questa è sempre il 950 con l'MC60. Adesso cambio il microfono. Aspetta che mi prendo una sedia. Va bene, intanto lo attacco. Ci sono. Eccolo qua, questo è l'MD100 a 20 cm dalla bocca, e ho alzato leggermente un po' il tono della mia voce, perché non vedo che sta andando neanche di picchi di modulazione. C'è un abisso, è un abisso, proprio cambia la giornata alla notte. Questa è una modulazione molto, molto riposata, molto chiara, però non di, diciamo, di come piace a te, non ha nulla, ma niente. Ma capito, sinceramente non avevo dubbi, guarda, adesso ti alzo anche l'amplificazione, la metto a ora. 45, 47, 48, 50, non ho alzato ancora i picchi e non ho alzato niente. No, non ha cambiato nulla, cioè ha cambiato che rimane un po' è pastosa, non ha niente a che vedere, ma assolutamente no. Vabbè, l'ho rimessa a 30, per dirti, cioè non ne vale la pena prendere, secondo me, questo mic, spendere dei soldi per non andare bene, non va bene. Magari va bene in banda, perché è più chiara la modulazione, più... però, non sto spingendo, io lo vedo, non è che non lo vedo. No, non spinge perché non dà picchi di modulazione, non fa andare la radio, capito? Non fa andare la radio. È una modulazione molto riposata, molto, diciamo, una modulazione molto infine, è pulita, è una modulazione molto pulita, è signorile, no, sicuramente in banda quello è micidiale. Però io sono d'accordo con te, non conviene comprare una cosa che poi non usi e non ti piace. Dovresti trovare un MC60, buono, che senza problemi, che da abbinare a quella radio lì, così ne è uno per una e uno per l'altra. Aspetti un pochino e vedi un po'. Sì, infatti adesso sono impazzato con l'altro, ma penso che te ne sia accorto. L'altro l'ho provato, mi ha dato bene per qualche minuto, perché stavo sempre provando, a un certo punto morto di nuovo. Non so cosa ne posso apprendere a questo microfono. Per giunta l'ho usato con il 450, attenzione, non gli ho messo questo, perché magari ha detto va, può darsi che non si abbini, può darsi che c'è qualche cosa che questa radio differente dall'altra, magari il microfono non lo sopporta. Magari ho pensato anche che il mio era, nonostante tutto essendo di vecchia generazione, teneva qualcosa in più, non lo so, ho dovuto cambiare. Mollalo, perché magari risolvi la cosa per un mese e poi sei di nuovo punto a capo, devi stare sempre con il tuo microfono in mano. Mollalo. Lui dice proprio, cioè francamente alla fine io non so che cosa, come se però sta presa, non so il prezzo, queste cose qua non mi interessano, però anche se la cifra è modica o è bassa, sono sempre soldi che stai investendo per una cosa che non sai se un domani potrà durare. Sembra così, no? Sembra così, io dico sempre una cosa. Questa roba così di radiofrequenza, bisogna, uno dice sì, ma è bravo, è quello, sì, tutto quello che vuoi, però bisogna anche saper dove mettere le mani al colpo sicuro, perché cambiando i componenti, cambiando tutto, il microfono dovrebbe andare bene, però può darsi che c'ha da problemi anche la scheda, anche magari il pre-circuito prestampato, queste cose qua, e ti darà sempre il difetto. Sì, ma infatti lui per non rischiare cosa ha fatto? Ma non sarà qualche soldatura fredda, l'ha preso il salvatore con la punta e gliel'ha ripassata, mi ha detto vedi, perché mi ha fatto le prove anche io, lui è in banda, in AM, e stava andando, però poi a un certo punto ha mollato anche a lui, poi ha ripreso, poi cambiava, faceva, magari nel cambiare il microfono e farmi sentire in un altro, lui si riposava, poi ripartiva la grande, capito? Io magari adesso se lo attacco, visto che era un po' fermo, magari lo prende, dopo da un po' si zittisce. Guardati, io mercoledì provo a fare una cosa, io mercoledì provo, perché io con Bianconi, cioè no, diciamo quando ho qualche problema lo chiamo e mi sa dare anche consigli, io lunedì provo a chiamarlo, bravo, mercoledì provo a chiamarlo e gli spiego questa situazione, vedo un po' cosa mi dice, se mi sa dare qualche dritta per la riparazione, capito? Sì, io adesso ho mandato i messaggi e il video a Andrea per fargli vedere che effettivamente non sta andando, forse non l'ha vista ancora, infatti non l'ha vista. Glielo restituisco, aspetto e poi vediamo un po' cosa esce fuori, perché con quel microfono praticamente adesso io con questo importante bianca ho circa 20 watt, ok? Parlo di radio, dalla radio, dallo strumento della radio, però fai un picco di modulazione oltre i 100, 190, oppure 100, 100 101, 102, capito? Quindi lo vedo, e invece nell'altro è sempre a 20 watt. Sì, sì, non lo fa uscire di radio, non lo fa uscire di radio. Eh sì, abbiamo fatto l'altro giorno, l'abbiamo messa, abbiamo provato a metterla a 20 watt e ti dava i picchi, cioè hai dei picchi di modulazione importanti, hai dei picchi di modulazione importanti, ti variano da 25 a 9,40 con 20 watt di portante bianca, invece quando la tenevi alta di radio, alta di watt già, importante bianca, è di fisso e basta. I picchi sono molto molto molto belli, hai dei picchi, ti ripeto, da 9,25 a 9,40, sono picchi importanti quelli. Mercoledì mattina provo a sentirlo e vedo se gli è capitato qualcosa, lui, ma sicuramente gli è capitato qualcosa. Mi serve, perché a volte a me, io a volte l'ho chiamato, però mi ha dato delle dritte e niente, vediamo un po' cosa mi dice, mi spiego un po' la situazione, però certo che è un peccato, certo che è un peccato. Oggi mi devi dare 5 minuti che mi è mancata la bomba, devo uscire fuori a cambiarla. Io sono qua, aiuti. Sono qua, non ti preoccupare, fai quello che devi fare. A dopo. Sì, a dopo. Che è successo? Come il più bello, di sabato e domenica ti finisce la bombola, quindi io sono uno che 2-3 ce l'ho sempre portato in mano. Yes. Oh, ma tu lo sai che quando metto questo filtro NB1-2 ho la ricezione distorta? Allora, io l'ho notato in altre bande, però ascoltavo con uno e l'altro, diciamo che c'è un abisso, la ricezione questa è molto più selettiva, però ti aiuta quel filtro lì, guarda che lo puoi far scendere anche più giù, Sì, però sto dicendo, guarda, queste, diciamo, questi 450 vanno bene, 27 vanno bene, sì, sono radio, diciamo, di una fascia media, tu devi sentire, ti sei accorto in ricezione in altre bande, cosa è l'altra, e tu devi sentire lì come lo c'ho io, cos'è in ricezione. 40-80 metri è totalmente diverso, è un altro tipo di radio, non ce la metto proprio a paragone, ti volevo dire, non fa neanche T a toccare i parametri, di quella radio con il microfono da tavolo, con l'MD100, perché poi magari prendi in casini tutto e bisogna rifare tutto il lavoro da capo, anche perché non ce la fai mai a raggiungere il risultato dell'MC60, quindi è inutile neanche provarci. Ma neanche lontanamente, a futtidini, no. Allora ieri l'ho sentita, ho fatto una prova in AM con una e l'altra, nettamente migliore, hai ragione anche tu, molti gradiscono anche questa modulazione, a parte che è un pochino anche più alta dell'altra, meno gracchiante però più alta, ma va benissimo, va bene, no Non mi interessa, capì. Anzi, io ti ringrazio, però abbiamo raggiunto quello che, o perlomeno grazie a te, abbiamo raggiunto quello che volevo, ecco. Sì, perché grazie a me, non è che abbiamo fatto questa grandissima, abbiamo preso e lavorato dei parametri e basta. Tu che grazie a me, lo devi grazie a, diciamo, a quell'affare che uso io, perché a sentire certe frequenze, no? Non sarei stati ancora incasinati, capito? Però diciamo grazie alla tecnologia siamo riusciti a raggiungere un risultato eccellente. Sì, vabbè, te ne cerchi uno buono e ciccia. Ti sei accorto cos'è in ricezione quella che stai usando adesso in altre bande? Sì, ma poi, vabbè, quando fai il paragone che ce l'hai vicine, a parte che l'ho provate entrambi, anzi, una l'ho provata con la colonnina sua di serie, e il 950 l'ho provato prima senza colonnina e poi con la colonnina, cioè, no, lascia perdere. No, ma non è questo 950 è radio a 27, in 27 e basta, con tutti i fichi, con se devi ascoltare non va bene neanche per ascoltare, mi trovo bello a vedere, a fare, però guarda, io non lo do perché mi va bene così, anche perché poi per fare radioascolto c'ho altra roba e non lo uso io questo qua per il radioascolto, lo uso per la 27, ma vabbè, però sicuramente in questa radio qua bisogna abbinargli un DSP esterno e allora magari può anche cambiare, ma non ci credo. Secondo me, guarda, io non voglio cosa, però il 440 sarà più vecchio, però è molto vecchio. Ma Gabi, guarda, io ti dico la verità, non posso dirti che le prove sono state fatte con entrambi le radio assieme, diciamo, però come bellezza sono tutte e due belle, per carità, questa è un pochino più giovane tra virgolette, però se sai trovare le giuste misurazioni va bene. Poi c'è chi dice che il 430 è migliore del 440, questo non so, sono cose che a chi piace, io spinge di più il 440 e il 430, però a volte devi abbassare l'amplificazione perché o sale troppo e ti mangia la timbrica o quanto, quindi va troppo in prepotenza, ecco. Non so, piacere, gusti sono sempre quelli. Sì. No, io parlavo di come di performance della radio, cioè non come estetica, perché come estetica a queste qua ci abbiamo noi, non c'è niente da dirle. Però ma la verità adesso non ne voglio fare perché devo fare altro e poi non mi interessa. Però se capiterà l'occasione o capiterà modo di farlo, mi prenderò un 940 o un 950. O 940 o 950, perché non lo so, secondo me questa radio qua è strana. Ma dici che è strana perché pensi che sia stata toccata oppure è strana in sé? No, è strana in sé, è tutta una radio strana in sé, una radio strana in sé. Come allora io mi trovo molto bene, diciamo nelle funzioni tra filtri, scanner, memorie, come accordatore mi trovo molto bene. Non mi piace la ricezione, proprio, non mi piace proprio la ricezione a me questa radio, capito? È casinista, diciamo, pesca di tutto, è proprio casinista. Adesso non so se è la mia posizione che mi sta facendo, che diciamo che mi sta incarnando, che è brutta, però sì, se avrei avuto problemi, cioè sarebbe stata la mia posizione, avrei avuto anche problemi con l'ICOM, mentre con l'ICOM non ho nessun problema, cioè se io prendo, e adesso passo in 27 con l'ICOM, io lo prendo, magari chiudo un po' lo squelch, ma appena mezzo giro di squelch è chiusa, proprio è zitta, è proprio zitta, questa qua non c'è stato zitta, questa qua non vuole sentita. Chi si accontenta cosa, dai, fregatene, tienila così che già per la 27 ce n'è, ma non di più, no, anche per i furci, fregatene, lascia perdere, poi vabbè, se vuoi fare una cosa più selettiva, giustamente, vai a migliorare, prendi qualcosa che è nata dopo e che si comporta bene stesso. Che vuoi clicca, capito? Vabbè, comunque abbiamo fatto questa prova, l'ho fatta con Andrea stesso, queste prove qua, e lui mi ha detto, ma sicuramente la radio non è portata come la tua, mi ha detto, perché voi avete toccato l'equalizzatore microfonico, quindi magari io non riesco a questo, mi sono regolato solo con i polmoni e quindi i parametri sono completamente diversi. E non andava bene neanche con lui, con il microfono lì. Poi è riuscito a farlo andare bene, però torna a casa, quando torna a casa non spinge come deve spingere. Sicuramente ha problemi con il microfono, ma vabbè, dai. Adesso ho mandato il video, poi più tardi ce lo guarderà, perché adesso che sto mangiando. E anche io mi devo allontanare, capito? Che anche noi siamo pronti per il carico, noi mangiamo un pochino tardi, anche perché domani, insomma, un po' di riposo tra una cosa e l'altra, facciamo un ponte, vediamo cosa ne ci fuori in questo ponte qua. E tu hai organizzato qualcosa? Noti, io domani sono a casa, infatti viene mio suocero, ieri sera ho lavorato fino a tardi, stavo caricando la struttura per il concerto, abbiamo lunedì a Bonanna, da dove Nomadi, caricato sia il camion grande sia il furgone piccolino, poi oggi la verità mi sono messo con mia moglie, ci abbiamo fatto fuori un pezzo fuori, abbiamo prima tagliato a rasaerba, decespugliatore a rasaerba e poi raccolto tutto, adesso manca l'altra campata. Niente, domani farò lo stesso, lunedì devo lavorare, lunedì abbiamo concerto, abbiamo Nomadi. Mercoledì, martedì sicuramente dormirò fino alle 2, fino alle 14, alle 15 pure, perché penso che il concerto inizia alle 10, finisce a mezzanotte, poi trasmontare tutto e si fanno le 6 del mattino. Niente, non sono a casa. Una cosa, ti e poi ti lascio stare, ma Andrea l'ha sentita la modulazione che abbiamo fatto con l'MC60? Sì, e come no, infatti tu vedi, questo è il mio e questo è il tuo, paragone, poi questa radio è così e questa radio è cos'ha, le ho provate tutte, capito? Ho detto no, va bene, capito, però non riesce a capire anche lui cosa potrebbe essere questo microfono qua. Vabbè, ma già lo trovo, volendo uno, lo devo cercare qua a Sassari, però è sempre il sorriso, adesso questo mi ha aperto un pochino la anche se non lo provi, oppure lo provi va bene, ok, se, non, se invece non lo provi e ti va male, sei rampato dentro io, minimo. Sì, sì, sì, ma infatti, bisogna trovare una persona che prende, cioè uno che ce l'ha, e ti dice, quanto lo vuoi, 100 euro, va bene, questi sono i soldi, però lo proviamo prima. E no, ma tieni, però non c'è problema. Dice, guarda, i soldi sono qua, quanto vuoi, 100 euro, 120 euro, ma facendo l'esempio, perché 120 euro no, però quanto vuoi, 100 euro, tieni, guarda, questi sono i soldi, andiamo a casa, lo proviamo, oppure me lo dai, lo provo, tu mi chiami, mi dici, guarda, mica c'ho questo a fare qua, lo proviamo, lui facciamo una prova, e poi glielo si paga. Perché hai trovato male a lui che è onesto e ti ha detto dammelo, l'ha riparato, secondo il cane che trovi ti dici no, ma l'hai rotto tu, quindi a me non mi interessa niente, perché può succedere anche una cosa così. Ti ha dato una conferma buona Andrea, ti ha detto che gli piace la radio come è stata fatta? Sì, va bene, poi te l'ho fatta sentire anche in SSB e già le piace. Infatti adesso vedo un po', sento un po' e vediamo se riesco, ma il suo è diverso, non ha l'equalizzatore parametrico, quindi lui ha il 920. Ah, ho capito, sì. Beh, cambia totalmente diversa, guarda che tu con quella c'hai una marcia in più, tu hai un'equalizzazione, ti puoi modificare la voce come vuoi, quello è tanto, ti caspita, no? Ma hai fatto bene a prendere, hai fatto bene, perché è una bella radio e c'è giusto, hai fatto benissimo. Giusto così. Adesso manca il microfono con calma e poi vado per uno o per l'altro. Va bene Tino. Vabbè, vai, magari se coincide dopo, vai, che adesso vado, mi stanno aspettando, più che altro. Ok, a dopo, ciao. Sì, ti già sono qua, sto facendo ascolto io intanto. Sono qua ti. Quando è chiamala, perché adesso questa radio la metto più in giù, però chiamala dove ci sentiamo noi, quando entri, ok? Buona cena a te, alla tua famiglia, a dopo. Ehi, ciao, grazie, ciao, a dopo, ciao.